Sì, allora faccio un po' per punto di quello che è successo oggi. C'è stato questo appuntamento appunto del tutto spontaneo alle 4 qui dal Pigneto, in particolare insomma dove è un quartiere dove la comunità senegalese è abbastanza ampia. Lo ricordiamo, esiste anche una via, via Campobasso, ci sono diverse palazzine appunto dove vivono tanti senegalesi. Più volte l'abbiamo seguita con la radio proprio perché le forze dell'ordine hanno cercato di entrare per due CD contraffatti di recente, cercare di sgomberarli. Quindi insomma una comunità che è al Pigneto dove da tempo vede insomma i soprusi della polizia rivolti verso di loro, sono partiti spontaneamente dal Pigneto e sono andati in corteo fino a Piazza Vittorio. Una grossa quantitativa, insomma, la comunità senegalese è abbastanza grossa qui, quindi più di diverse centinaia sono arrivati a Piazza Vittorio, è stato bloccato il traffico di tutte le principe Eugenio. È stato fatto una piccola un sit-in praticamente lì a Piazza Vittorio con megafono eccetera, ricordando ovviamente quello che è stato che è successo a Firenze, ricordando che questo è comunque un paese che a partire dalle sue leggi, dai sci piuttosto che nel mondo del lavoro, e dicendo un paese che è profondamente razzista, e che questo atto di questa esponente di Casa Pound che ha ammazzato appunto questi due senegalesi e gli altri tre, non è il gesto di un folle, ma proprio un dato da questo clima di odio contro il diverso. Sono stato appuntamento per sabato prossimo al corteo di Firenze, dove appunto partiranno anche le pullman da Roma, dove la comunità senegalese anche romana andrà in forte. E diciamo che insomma Piazza Vittorio il corteo stava quasi anche andando verso Casa Pound, dove c'era un dispiegamento di forze non indifferenti con diversi blindati, è stato più o meno, si è fermato invece a metà, e lì appunto è avvenuta questa questa megafonata dove è accorsa insomma e si è aggregata a diverse altre persone. E dopo un po' il corteo è tornato indietro, si è fermato un po' a Viale Manzoni, a Porta Maggiore, per ritornare al Pigneto. Durante il ritorno sulla via Prenestina le forze dell'ordine ovviamente hanno dovuto segnare la loro medaglietta con la macchina, hanno un po' strecciato sulla via Prenestina e hanno mezzo investito un ragazzo senegalese, infischiandosene totalmente e tornando e andandosene via. E a Viale Manzoni ci sono stati altri atti, insomma c'è stato un ragazzo che ha urlato, che è stato insomma ci sono stati momenti un po' alti perché ovviamente qui la tensione è alta e quello che sta succedendo oggettivamente è un clima che loro già si vivono quotidianamente e che questo omicidio ha portato semplicemente all'eccesso, ma è un clima che c'è di soprusi, di segregazione, soprattutto insomma dai fascisti, dai forze di polizia. La cosa insomma che devo dire del corteo, che era un corteo totalmente appunto della comunità senegalese, c'erano pochi italiani, se si può fare questa distinzione, compagni e compagne, e quindi questa insomma è una nota, l'unica nota che casomai poteva essere un po' più forte, un po' più determinato, casomai far sentire insomma che non esiste la comunità senegalese e basta, ma insomma ci sono gli antirazzisti, le antirazziste, e questa è trasversale. Comunque diciamo che è stato fatto poi una piccola assemblea qui al Pigneto, gli interventi che sono stati fatti sono stati tutti in questo senso, nel dire che appunto non esiste più la comunità senegalese piuttosto che il Bangladesh eccetera, ma ci deve essere trasversalmente, orizzontalmente, chi subisce soprusi, chi non c'ha lavoro, chi c'ha sempre le guardie, le forze di polizia contro, insomma si può alleare per combattere insieme. Questo mi è sembrato un dato abbastanza positivo anche nel cercare di allargare le lotte e non rimanere chiusi appunto nelle proprie comunità, perché ovviamente il razzismo è trasversale. Si è dato appuntamento appunto sempre ancora una volta per sabato prossimo al corteo, e domani mattina insomma abbiamo parlato con loro, una delegazione della comunità senegalese verrà in radio, per cui potremmo continuare il discorso con loro a partire dalle 10:30 alle 11 per capire quali saranno i prossimi appuntamenti. Probabilmente ci sarà domani una conferenza stampa e poi la settimana prossima dopo il corteo si pensava di fare casomai un'assemblea più allargata pubblica per continuare a discutere insieme. Questo è quanto è successo oggi pomeriggio.